11-12 dicembre. Smau.it vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Regionali, il Partito Democratico celebra la vittoria e piange l'astensione. La Lega doppia Forza Italia in Emilia-Romagna. Salvini dice storico, elezioni più vicine. Renzi, la Lega sta arrivando, aspettiamo, intanto cambiamo il paese. Resa dei conti in Forza Italia, Fitto chiede di azzerare tutte le nomine. Caso Iara, Bossetti tace davanti ai magistrati, gli avvocati dai PM inaccettabili pressioni perché confessasse. Tensione a St. Louis in attesa della sentenza sulla gente che sparò un nero disarmato uccidendolo. Ieri i poliziotti hanno ucciso un 12enne a Cleveland. Mamma, è andato tutto benissimo. Ecco il primo messaggio dalla stazione spaziale dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Oggi vi trasmettiamo, così come hanno fatto a cuore e denari, da Matching, arrivato alla sua decima edizione, dalla Fiera di Milano, Ro Pero, un appuntamento per le aziende per incontrarsi, conoscersi, conoscere i propri mercati di riferimento. È ospite qua a Matching anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, lo incontreremo più tardi, sarà il nostro ospite per parlare anche di elezioni. Intanto vi ricordo i nostri contatti, 349-238-6666 per i vostri sms, effetto giorno @radio24.it, e c'è anche la pagina Facebook. E dunque proprio dalle elezioni iniziamo, perché la giornata italiana è dominata da queste. Come vi abbiamo ampiamente raccontato, premiano il centro-sinistra ma fanno registrare un'altissima astensione, soprattutto in Emilia-Romagna. E poi ovviamente ci sono le reazioni, a partire da quella del Presidente del Consiglio. Iniziamo dunque con un riassunto dei risultati. La vittoria è netta, dice il Presidente del Consiglio, e in effetti i neogovernatori dell'Emilia-Romagna e della Calabria erano i candidati del Partito Democratico. In Emilia Stefano Bonaccini raccoglie il 49% dei voti. L'affluenza però, in una regione in cui è sempre stata alta, si è fermata al 37,7%. Lo stesso Partito Democratico ne paga le conseguenze, perdendo voti rispetto alle europee, meno 700.000, ma anche rispetto alle regionali del 2010, meno 300.000. Bonaccini riconosce che le indagini sulle spese dei consiglieri hanno avuto il loro peso e non si nasconde la necessità di una riflessione. Credo che adesso servirà leggere lucidamente il voto. Abbiamo davanti 5 anni per dimostrare di fare bene. Credo che bisogna aprire davvero una nuova stagione. Conseguenze amare per Forza Italia e Movimento 5 Stelle, mentre la Lega ha raccolto uno dei suoi risultati migliori, raddoppiando i voti delle europee, superata quota 200.000, e arrivando al 20% con 9 consiglieri regionali del Carroccio. Il calo dell'affluenza in Emilia-Romagna è stato più marcato anche rispetto alla Calabria, dove l'astensione ha giocato scherzi anche in passato. In Calabria è andato a votare il 44,1% degli aventi diritto. Per Mario Oliverio la strada era in discesa, anche perché il centrodestra si presentava diviso, disperdendo ulteriormente il voto. Il candidato del PD si è imposto con oltre il 61%. Apriremo subito un confronto su un terreno nuovo con il governo del paese. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro, l'analisi sull'astensionismo è nell'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, quello che balza all'occhio è il decisivo crollo della partecipazione. In molti lo avevano previsto, ma non nei termini in cui si è palesata ieri l'astensione. È accaduto che nella regione dove storicamente il tasso di attività politica e associativa è certamente il più alto del paese, su 3,4 milioni di cittadini aventi diritto al voto, solo metà si sono presentati ordinatamente ai seggi. E gli altri sono semplicemente rimasti a casa. Il commento del professor Romano Prodi, che a Bologna vive da sempre, va proprio in questa direzione. Sono dati preoccupanti. Cosa ha provocato questa lacerazione tra elettori e politica? Sicuramente hanno pesato le inchieste sulle cosiddette spese pazze, che hanno coinvolto larga parte dei consiglieri di tutti i gruppi politici. Con ogni probabilità una parte della base del PD ha voluto dare un segnale ai vertici regionali e nazionali, scegliendo l'opzione della fuga del voto. I numeri ci dicono che l'astensione è uniforme in tutte le città dell'Emilia-Romagna, con punte a Rimini, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, luoghi dove le elezioni sono roba quasi sacra. In sostanza, rispetto alle regionali del 2010, ci sono 9-10 punti in meno di partecipazione e i dati di affluenza in Emilia-Romagna marciano in netta tendenza con quelli registrati in Calabria, un luogo storico di fortissima astensione. Più che sull'esito delle elezioni, più su chi ha vinto o chi ha perso, forse la classe politica emiliana, calabrese e nazionale dovrebbe interrogarsi oggi sul significato del non voto e sul progressivo allontanamento di un pezzo consistente di corpo elettorale adulto, colto ed informato. E come si diceva, ci sono le reazioni. Matteo Renzi incassa la vittoria alle regionali e assicura che il risultato del voto non farà cambiare l'agenda del suo governo. Chi si impegna nelle riforme in modo coerente vince. Non sono preoccupato che qualcuno ora si tiri indietro, anche se lo faranno, noi andremo avanti comunque, avverte il Presidente del Consiglio, riferendosi a Forza Italia ma anche al Movimento 5 Stelle. A cantare vittoria è anche la Lega Nord che, doppiando Forza Italia in Emilia-Romagna, si impone come prima forza politica del centrodestra. Il pallone di Renzi si sta sgonfiando, attacca il leader del Carroccio Salvini che a Mix 24 dice di vedere ora più vicine le elezioni in primavera. Noi siamo pronti e io non partecipo per partecipare, così come De Coubertin. Io sono arrabbiato nero per come il Milan non ha vinto il derby ieri sera. Io se partecipo provo a vincere. In Forza Italia la sconfitta alimenta invece nuovi malumori della minoranza interna. L'esito del voto è stato drammatico, commenta Fitto, che chiede di azzerare i vertici del partito e mettere fine ad una linea politica giudicata incomprensibile e ambigua che oscilla fra l'appiattimento assoluto verso il governo e gli insulti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro, poi naturalmente ci torneremo più avanti nel corso della trasmissione, come si diceva, col ministro Lupi e il nuovo centrodestra, per capire anche la situazione proprio del centrodestra. Però veniamo alle vicende di politica economica. Mentre ieri è arrivato un sostanziale via libera all'esecutivo dalla Commissione europea, anche se il giudizio finale è atteso in settimana sulla manovra, riprende il lavoro parlamentare sul Jobs Act. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è cominciato poco dopo le 11 l'esame degli emendamenti al disegno di legge delega che rivede le norme sul lavoro e l'articolo 18. L'esecutivo sembra aver messo nel cassetto l'ipotesi di porre la fiducia, per il momento no, poi vediamo, ha detto il ministro del lavoro Poletti entrando in aula, facendo intendere che sarà l'andamento della discussione a orientare la scelta dell'esecutivo. Mentre il capogruppo PD alla Camera Speranza in un tweet esulta: niente fiducia, ha vinto il Parlamento. L'obiettivo resta comunque quello di concludere l'esame del provvedimento entro mercoledì, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, e passare in terza lettura in Senato, e tutto potrebbe chiudersi entro il 9 dicembre qualora non ci fossero modifiche a Palazzo Madama. Giovedì nell'aula della Camera invece approderà la legge di stabilità. Tempi contingentati, mentre rimane però sempre e non troppo sullo sfondo lo scontro tra governo e minoranza PD e Fiom, ma secondo il ministro per le riforme Boschi non esiste un rischio scissione nel partito. Boschi, che a Landini invece replica dicendo: noi non accettiamo lezioni di moralità da nessuno. E da Roma per ora è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Via libera dall'autorità per l'energia elettrica e il gas alle nuove tariffe per l'acqua, un metodo per la prima volta omogeneo in tutta Italia che interessa circa 40 milioni di utenti, e però si è deciso per un aggiornamento medio rispetto all'anno precedente, pari a un più 3,9% per quest'anno e un più 4,8% per il 2015. Quasi 6 milioni di consumatori hanno avuto invece una riduzione del 10% nella bolletta. E a proposito di autorità, c'è anche la richiesta di chiarimenti e di cambiamenti arrivata dall'IVAS, l'autorità che deve controllare le assicurazioni. Troppa pubblicità che può confondere consumatori, evidenza ad imprese con le quali si sono conclusi accordi e di cui si hanno provvigioni, confronti di prodotti disomogenei. Sono alcune delle criticità per quanto riguarda i siti di comparazione per le assicurazioni auto denunciate dall'IVAS, che chiede correttivi entro il 31 gennaio del 2015. La cronaca ci racconta di una notizia arrivata in tarda mattinata oggi di un medico italiano contagiato da Ebola. È un medico di emergency, il primo cittadino italiano risultato positivo al virus Ebola. Lavora in Sierra Leone presso il centro per malati di Ebola di emergency di Lacca. Arriverà stanotte in Italia e verrà ricoverato all'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma. L'uomo, di cui non sono state diffuse le generalità per tutelarne la privacy, ha comunque seguito, come tutto lo staff del centro, una formazione specifica sui controlli di protezione per evitare il contagio e la diffusione del virus. In Sierra Leone, spiega l'organizzazione medico-umanitaria, la situazione è drammatica. L'epidemia continua a espandersi con oltre 100 nuovi casi al giorno. Emergency ricorda i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale Ebola ha causato 5.400 morti su 15.000 casi in 8 diversi paesi. Il paese più colpito rimane la Liberia, poi la Guinea, infine la Sierra Leone. Fuori dall'Africa, 4 casi sono stati registrati negli Stati Uniti e 1 in Spagna. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'estero, iniziando dall'attesa negli Stati Uniti per la sentenza sul poliziotto che a Ferguson aveva sparato uccidendo un giovane di colore, mentre un dodicenne è stato ucciso da 2 agenti per non aver alzato le mani sul loro ordine. A Cleveland aveva in mano una pistola a giocattolo. Morire a 12 anni per una pistola finta o a 18 per strada disarmato. Morire in entrambi i casi per mano della polizia. Anche questa è l'America, l'America di Ferguson, che aspetta la decisione del gran giurì sui fatti di agosto, e l'America di Cleveland, dove 2 agenti sono stati sospesi dopo l'uccisione di un ragazzino, anche lui afroamericano, proprio come Michael Brown. Erano le 3:30 del pomeriggio quando da un parco di Cleveland arriva una telefonata al pronto intervento. Un uomo segnala che un ragazzino spaventa i passanti con una pistola, probabilmente finta, scandisce 2 volte la voce e subito specifica pure che forse si tratta di un minorenne e di colore. 2 agenti arrivano, gli ordinano di alzare le mani, lui invece le porta alla cintura e allora per 2 volte le pistole, quelle vere, fanno fuoco e lo raggiungono allo stomaco. Il dodicenne morirà il giorno dopo e poco prima che in una Ferguson blindata il gran giurì decida se incriminare o meno quel poliziotto che aveva ucciso il 18enne Brown dando il via l'estate scorsa a violenti scontri. Così ora l'America aspetta di capire come si possa morire a 12 o a 18 anni per mano della polizia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Israele, dove la coalizione di governo di Netanyahu rischia di sfaldarsi per una proposta di legge dei nazionalisti che definisce in modo inequivocabile Israele come Stato della nazione ebraica. Fortemente critica la sinistra. Fuoco sul fuoco, mentre cresce il dibattito sulla cosiddetta terza intifada, che sarebbe iniziata la settimana scorsa con l'attentato nella sinagoga di Gerusalemme. Su questo Alessandra Tedesco ha intervistato David Grossman, scrittore israeliano che da tempo si batte per la soluzione due popoli, due stati. Sentiamo. You know, we always live in high voltage of violence. Si sa, noi viviamo in un alto livello di violenza, sempre, da quando è stato fondato Israele e ancora prima, con la nascita del sionismo all'inizio del Novecento. Siamo immersi nella violenza, quella che subiamo, ma anche quella che esercitiamo sugli altri. Naturalmente la guerra di Gaza dell'estate scorsa e il fatto che non sia stato compiuto nessun serio passo avanti dopo migliaia di vite perse e migliaia di case distrutte, nonostante tutta questa sofferenza, nulla è cambiato. Questo è disperante. La scorsa settimana abbiamo visto come tutto ciò possa portare ad una terza intifada concentrata a Gerusalemme. Questo dimostra che il fondamentalismo e il fanatismo hanno preso il sopravvento sulla logica e la razionalità. Per anni io ed alcuni amici ci siamo battuti perché la pace si fondasse su una soluzione politica, su un compromesso logico tra noi ed i palestinesi. Ma quando un conflitto diventa religioso e fondamentalista, diventa molto difficile trovare una soluzione. La soluzione non sarà razionale, sarà una soluzione basata sul sangue e sul fuoco. It will be a solution of blood and fire. Secondo lei Abu Mazen e Netanyahu sono in qualche modo responsabili di questo precipitare degli eventi? E se sì, in che modo? None of them really wanted the escalation, and of course none of them have sent. Nessuno dei due è responsabile di questa escalation. Nessuno dei due ha inviato direttamente i terroristi. Anche i servizi segreti israeliani hanno dichiarato che Abu Mazen non ha istigato i terroristi. Però entrambi Abu Mazen e Netanyahu sono colpevoli di non provare a cambiare la situazione. Dovrebbero essere creativi e aiutare i due popoli a uscire da questa trappola nella quale si trovano ormai da un secolo. E invece sembra che in un modo strano entrambi vogliano mantenere il conflitto piuttosto che risolverlo. Probabilmente ognuno di loro sa che pagherebbe un prezzo personale molto alto se concedesse qualcosa all'altro, al fine di avere la pace. Ma un vero leader dovrebbe avere il coraggio di pagare questo prezzo personale, dovrebbe fare di tutto per andare avanti e per liberare entrambi i popoli da questa trappola. Redeem both peoples from this trap. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un italiano medico di emergency contagiato da Ebola sarà portato allo Spallanzani di Roma. Regionali, il PD celebra la vittoria e piange l'astensione, la Lega doppia Forza Italia in Emilia-Romagna. Il caso Iara, Bossetti tace davanti ai magistrati. Gli avvocati dicono dai PM inaccettabili pressioni perché confessasse. Stiamo cercando di raggiungere uno dei legali. Tensione a St. Louis in attesa della sentenza sulla gente che sparò un nero disarmato uccidendolo, e ieri i poliziotti hanno ucciso un dodicenne a Cleveland. Mamma, è andato tutto benissimo, è stato questo il primo messaggio dalla stazione spaziale dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. E di nuovo bentornati da Simone Spezia, la seconda parte di Effetto Giorno in diretta da Matching, alla sua 10ª edizione alla Fiera di Milano RO, edizione appunto 2014, un momento anche per le aziende per incontrarsi, e ci sono anche argomenti che hanno a che fare con quelli che noi abbiamo toccato parecchio nelle ultime settimane, a partire dal tema degli effetti delle alluvioni. Voglio salutare Stefano Sala, che è amministratore delegato di PER, proprio scritto così, P-E-R, ed è un'azienda che si occupa di management dei rischi, per così dire, e anche prevenzione dei rischi, questo è il punto. Vorrei chiederle esattamente da questo punto di vista che cosa non ha funzionato a Genova, a prescindere da quello che riguarda lo Stato e i lavori del bisagno e tutto quello che abbiamo raccontato. Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Io credo che, come in molte parti d'Italia, il problema sia innanzitutto culturale. Noi imprenditori, piccoli o grandi imprenditori, da una parte sappiamo tutto della nostra produzione, sappiamo tutto dei nostri clienti, sappiamo tutto della nostra attività, ma non ci poniamo mai una domanda fondamentale: ma cosa succede se io domani mi capita un incendio, mi capita un'alluvione, mi capita un evento naturale di grande portata? Ecco, a questa domanda noi normalmente rispondiamo: ma non capiterà certo a me una cosa del genere. Io credo che il primo tema, al di là, come diceva lei, di tutti gli aiuti pubblici, sia che una domanda sul risk management, cioè sulla gestione, sulla cultura del rischio, sia effettivamente uno dei temi più mancanti in Italia. Come a dire, ci sono delle colpe dello Stato, dei comuni, delle regioni, delle province, di chi non fa interventi contro il dissesto, ma ci sono colpe anche delle aziende e dei cittadini che non si informano abbastanza su in quali condizioni il loro territorio e come tutelarsi. Assolutamente d'accordo con la sua osservazione, le faccio qualche esempio. Noi in questo momento tra Genova, Chiavari, Milano, Luino, Laveno, Tortona, Alessandria abbiamo circa 80 interventi in corso di bonifica e di risanamento, che vanno dalla eliminazione del fango all'asciugatura forzata dei locali, al ripristino di macchinari danneggiati, e tutti questi interventi che noi facciamo potrebbero essere molto meno costosi e molto più veloci se l'azienda avesse già di suo, prima di chiamarci, effettuato tutta una serie di attività volte a minimizzare il danno. Attività che invece normalmente tendiamo a non fare e tendiamo a considerare, anziché un investimento sulla propria attività, un costo da tagliare. Grazie a Stefano Sala, amministratore delegato di PER, è un'azienda appunto che si occupa di risk management ed è qua a incontrare naturalmente anche le molte aziende che stanno frequentando Matching. Le auguro buona giornata e buon lavoro. Noi adesso vediamo se riusciamo a preparare il servizio su Samantha Cristoforetti, così sentiamo un attimo com'è andato questo approdo alla stazione spaziale della prima astronauta italiana. È pronto? Vediamo, via! Dopo un lancio perfetto dalla base russa di Baikonur nel Kazakistan, scandito dalle note di The Final Countdown degli Euro, e dopo un ottimo viaggio durato 6 ore intorno alle 4 ore italiana, la navetta Soyuz si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Un'attesa di quasi 2 ore poi, il portello si è aperto e Samantha Cristoforetti, coronando il suo sogno di bambina di andare nello spazio, è stata la prima ad entrare. Stanca ma felice, indossava la tuta blu con la bandiera italiana sul braccio. La sua missione futura è la seconda di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana, sulla tuta anche il logo dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui la nostra astronauta è entrata a far parte nel 2009. Insieme a lei ad entrare nella stazione orbitale anche il russo e l'americano, suoi compagni di volo. Ma Samantha si è commossa quando, nel collegamento col centro di controllo della missione a Mosca, ha sentito in cuffia la voce della mamma. È come te la sognavi? Molto meglio per adesso. Qui ci hanno accolti con una cena, pranzo, colazione, non so neanche più che ore sono, insomma, tra un sacco di tempo che non mangeravamo, quindi ci hanno accolti con un festore. Nata a Milano 37 anni fa, ma cresciuta a Malé in provincia di Trento, Samantha Cristoforetti è la 59esima donna a volare tra le stelle e nei 6 mesi che trascorrerà sulla Stazione Spaziale Internazionale avrà moltissimi compiti da svolgere, tra cui almeno 200 esperimenti. Nutrizione e salute saranno il tema di fondo della sua missione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso dallo spazio ci spostiamo all'estero e a discutere a parlare di Iran, perché oggi scadeva la data per l'accordo per il raggiungimento di un accordo sulla questione del nucleare iraniano. Saluto Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, oggi scadeva la data limite, ma a quanto pare si stanno andando verso una nuova proroga però a breve termine, nuovi negoziati a dicembre. Che partita si sta giocando sul nucleare iraniano, Magri? La partita che si sta giocando è quella di riammettere l'Iran, dopo 12 anni di isolamento totale, nel gioco della politica internazionale. Se il negoziato funzionasse, l'Iran, da paria della comunità, tornerebbe ad essere un attore. Questo non risolverebbe tutti i problemi, sappiamo che le tensioni fra Iran e Israele, fra Iran e Arabia Saudita rimarrebbero forti, ma forse vedremmo qualche vicinanza in più su alcuni dossier. Già ora l'Iran sta collaborando, anche se non in modo esplicito, non potrebbe farlo, contro lo Stato Islamico in Iraq, è invece su posizioni diverse in Siria. C'è da immaginare un'evoluzione di questo quadro che potrebbe essere positiva. E che partita si stanno giocando gli Stati Uniti in questa vicenda, Magri? Obama si gioca quel poco di speranza di lasciare un'eredità positiva del suo mandato in politica estera, sicuramente se la gioca più qui che sul negoziato israelo-palestinese. Però Obama allo stesso tempo sa di non poter esagerare, sa che un accordo che apparisse debole per l'Occidente, per gli Stati Uniti, verrebbe ferocemente bloccato dal Congresso, e quindi questo è uno dei fattori che pesa su questo negoziato. Abbiamo due attori, Rouhani e Obama, che sanno di avere all'interno del proprio paese delle opposizioni forti e decise, che sono pronte a impallinare il firmatario di un accordo che apparisse troppo vantaggioso per una delle parti. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Siamo partiti dallo spazio con Samantha Cristoforetti, siamo passati all'estero, veniamo alla cronaca italiana. Saluto l'avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi il vostro assistito ha deciso di non rispondere ai magistrati. Voi avete parlato di pressioni fortissime da parte dei PM, non solo da parte dei PM, perché confessasse. Ci può dire esattamente che cosa intende e se ha qualche episodio specifico? Allora, voglio dire anzitutto che la decisione di non rispondere è stata una determinazione della difesa. Signor Borsetti, come precedentemente, avrebbe voluto rispondere ad ogni domanda, ma in considerazione del fatto che qualsiasi cosa lui dica, anche ovviamente nell'ovvia imprecisione, essendo passate 4 anni, è sempre utilizzata contro di lui, allora a questo punto abbiamo deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Le pressioni che riceve per una modifica della sua impostazione difensiva sono giornaliere e vengono da più parti. Non ultima, insomma, a quella che uno ha detto proprio fuori dal carcere, anche quella di chi si deve occupare della sua anima, che dovrebbe assisterlo in questo momento così difficile. Cioè, mi scusi, anche il cappellano del carcere gli ha chiesto di confessare? Anche il cappellano del carcere ha espresso la sua opinione, secondo cui questa linea difensiva è una linea difensiva che lo porta ad un esito assolutamente sfavorevole e che forse dovrebbe ripensare a qualcosa che gli consentirebbe di avere un trattamento più favorevole. Ecco, quindi questo è quanto lui riceve tutti i giorni da tutte le persone che lo circondano, che vengono in contatto con lui, quindi a partire dal cappellano sino agli inquirenti nelle varie persone, insomma. Allora, grazie all'avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio, come sapete, di Yara Gambiraso, per questo aggiornamento. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di sport, perché insomma il calcio lo sapete com'è andata. Il derby di Milano si è chiuso sull'1-1 col Milan in vantaggio al 23esimo con Menezza e pareggio interista con il nigeriano Obi al 61esimo, e poi una domenica che ha visto la frenata del Napoli bloccato sul pareggio dal Cagliari, il successo della Fiorentina a Verona e la Sampdoria che rallenta, il pareggio tra Udinese e Chievo. Ma ieri è stata una giornata importante anche per il tennis, una storia di Coppa Davis e una storia di riscatto. Eroe per un giorno, dopo una vita da mediano della racchetta. Strano destino quello di Stan Wawrinka, 29 anni, che da sempre per il tennis mondiale è l'altro svizzero. Sì, l'altro, perché essere elvetico e giocare a tennis nell'era di sua maestà Roger Federer non deve essere facilissimo. Re Roger, bello, educato, stravincente. Wawrinka, rotondetto, col viso butterato, onesto lavoratore di servizio e volée, a sobbarcarsi spesso i match di Coppa Davis ai quattro angoli del mondo, mentre Roger glissava l'impegno in nazionale per concentrarsi sui tanto amati tornei dello Slam. Ma da quest'anno la musica è cambiata. Il brutto anatroccolo Stan si è trasformato in un tennista coi fiocchi, capace di vincere gli Australian Open, di contendere appena una settimana fa proprio a Federer la semifinale del Masters di Londra, con tanto di alterco con la moglie del divino, rea di tifo scorretto dalla tribuna, e soprattutto di trascinare un Federer dalla schiena malandata al trionfo proprio in Davis, la prima in carriera per Roger e la prima nella storia del tennis rosso crociato. Se infatti è stato Federer a conquistare contro Gasquet il punto decisivo per battere la Francia, era stato Wawrinka a piegare le velleità transalpine nella finale di Lilla, battendo Tsonga e trascinando l'illustre compagno al successo nel doppio. E allora, sollevata la prestigiosa insalatiera al cielo, Roger e Stan si riscoprono amici. E non sorprenda, in questa favola fatta di servizi vincenti, sudore e terra battuta, che per una volta sia il re a dover ringraziare il suo scudiero. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione intervisteremo il ministro delle infrastrutture Lupi per parlare soprattutto di politica e di elezioni. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Regionali, il PD celebra la vittoria in Calabria ed Emilia, ma c'è la forte astensione, un dato che per Renzi preoccupa. La Lega doppia Forza Italia in Emilia-Romagna, nemmeno un consigliere in Calabria per il Movimento 5 Stelle. Un italiano medico di emergency contagiato da Ebola sarà portato allo Spallanzani di Roma. Caso Yara Bossetti tace davanti ai magistrati, l'avvocato dice a Radio 24 anche il cappellano del carcere gli ha chiesto di confessare. Tensione a San Luis in attesa della sentenza sulla gente che sparò un nero disarmato uccidendolo. Ieri i poliziotti hanno ucciso un 12enne a Cleveland. La borsa. Diventa un Cloud Italia provider. Guadagna con il cloud anche tu da subito. clouditalia.com. Vi presenta Borse in diretta. Ed è una giornata complessivamente positiva. Il FTSE MIB guadagna lo 0,66%, il FTSE All Share lo 0,63%, e positive sono anche le altre piazze finanziarie europee. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone. A cosa dobbiamo questi rialzi? Certamente c'è ancora un po' di effetto BCE, effetto Draghi, le dichiarazioni del presidente della Banca Centrale venerdì sulla prontezza dell'istituto a intervenire in altre forme con acquisti di asset per supportare la crescita e soprattutto per scongiurare il rischio deflazione. Ma poi c'è stato anche un indice sulle di fiducia delle imprese tedesche che ha un po' sorpreso il mercato, ci si aspettava una flessione a novembre, c'è stato invece un lieve rialzo e questo ha dato supporto alle borse, unito al fatto che gli acquisti sono andati soprattutto sui bancari. Per quanto riguarda l'Italia, ancora uno spread in lieve discesa su 140 punti base il differenziale tra i bond, il decennale italiano e il bund tedesco, e questo ha permesso di moltiplicare gli acquisti sui bancari. Grazie ad Andrea Fontana, colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, come sempre, per questi aggiornamenti. Andrea, buona giornata. Buona giornata a voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E qua dai nostri studi, che si trovano a Matching in questa occasione, ospitiamo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Vorrei partire con lei dalla politica, naturalmente. Allora, i dati sulla stensione l'abbiamo ampiamente commentati e francamente può anche bastare. Ci interessa lo stato del centrodestra, parlare con lei dello stato del centrodestra. Oggi nel suo ex partito si chiede, c'è una parte che chiede di azzerare le cariche, di certo c'è un centrodestra da rifondare. Visti i risultati di questi giorni, lei ritiene che ci sia ancora spazio per i cosiddetti moderati? Ma io credo di sì, tanto più giustamente siete partiti dai dati sulla stensione, perché è evidente che questa disaffezione tra la gente e le istituzioni e la politica e chi governa lo recuperi solo in un modo, iniziando a fare e a dare risposte concrete. Il governo ha questo compito ed è un governo eccezionale. Contemporaneamente noi dobbiamo decidere, e parlo dei moderati, parlo del centrodestra, se l'alternativa per eccezionale intende da stato di eccezione, immagino. Esatto, da stato di eccezione, cioè è evidente, 7 anni di recessione, abbiamo bisogno solo di uscirne rapidamente facendo fatti concreti, la legge di stabilità, mi sembra che arrivino anche dei segnali importanti dall'Europa che troppo spesso vengono sottovalutati. Io credo che questo giudizio dell'Europa sulla legge di stabilità sia una svolta per la prima volta anche nei confronti dell'Italia. Noi abbiamo detto non solo stabilità, anche crescita, abbiamo detto pareggio di bilancio sì, ma si deve spostare se non torniamo a crescere, stiamo facendo le riforme, Europa, insomma questi sono gli elementi che ci permettono di uscire dalla crisi, e per uscire dalla crisi hai bisogno del tempo e anche hai bisogno di fare cose concrete passo dopo passo. Nel frattempo c'è il tema che la sinistra con Renzi ha trovato un leader, si è rinnovata, non a caso le ultime elezioni regionali, quattro regioni dove governavamo il centrodestra li ha persi tutti. Piemonte, Sardegna, Abruzzo e Calabria. Si dimostra che la scelta di Forza Italia è una scelta che non va da nessuna parte, perché il problema non è alla ricerca disperata di Godot di chi sarà il successore di Berlusconi, se mai Berlusconi vuole trovare un successore, ma è dire se noi vogliamo ancora che i moderati possano essere un'alternativa credibile e responsabile con una proposta nuova al governo del paese. Ci si riesce, Ministro, con Salvini che vi azzanna le caviglie, per così dire? Ma Salvini fa il suo mestiere, io sono convinto che nessun mai composizione populista o estremista che parla alla pancia, la rabbia, si è mai candidato a governare un paese. È un estremista Salvini? Ma estremista nel senso che prende gli estremi di una posizione, no all'Europa, no all'euro, no all'immigrazione assoluta in tutto, e lì estremizza e ne fa il contenuto della proposta politica, tant'è vero che prende il consenso. La faccia di questo populismo estremismo, a cui ho profondo rispetto, ma è evidente, è Grillo da una parte e Salvini dall'altro. Grillo scende, Salvini cresce, ma Salvini cresce poi all'interno di un contesto che porta i moderati ad essere sempre più alla destra il tema è l'alternativa di questo paese è Renzi contro il populismo, Renzi contro l'estremismo, Renzi contro una destra che non è una destra di governo, non è una destra moderata che è capace di rinnovarsi, oppure Renzi come alternativa politica a moderati che sono in grado di, in maniera diversa, proporre una formula per uscire dalla crisi? Secondo lei i risultati di oggi, in particolare penso all'Emilia Romagna, mettono a rischio l'intesa sulla legge elettorale con Forza Italia? No, io credo che i risultati di oggi elettorali, io dico Emilia Romagna e Calabria, perché abbiamo due regioni che hanno votato e lì si sono segnati i due poli, la vittoria della sinistra in Emilia Romagna, il successo della Lega che raddoppia Forza Italia ma che prende 40-50 mila voti in meno rispetto alle elezioni del 2010. In Calabria, Forza Italia che ancora una volta ha diviso il centrodestra, è stato sotto i diktat della Lega, voleva la distruzione del nuovo centrodestra, e il nuovo centrodestra che ha oggettivamente, se ha un successo la Lega in Emilia Romagna, in Calabria ha un successo il nuovo centrodestra che prende il 9% nonostante si candidasse da sola e fosse contro tutti e contro tutti. Allora, è evidente che qui il problema non è la Lega di Salvini, non è il problema della legge elettorale che anzi ha un'accelerazione rispetto alla situazione presente, che è quella che bisogna fare le riforme, bisogna farle rapidissimamente, ma è l'iniziativa di ognuno di noi. Ultima domanda proprio a proposito di riforme. Oggi inizia il suo percorso parlamentare il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro. Per il momento sembra che l'ipotesi di una fiducia sia scongiurata, eppure Poletti è sembrato non escluderlo completamente. Lei, come la vede, si arriverà a fiducia sulla riforma del mercato del lavoro? A me interessa una sola cosa, che la riforma del lavoro sia approvata il più rapidamente possibile e non sia un passo indietro ma sia un passo avanti. Se per farla approvare... L'attuale formulazione del testo vi soddisfa? Sì. L'attuale riformazione del testo ci soddisfa, ma abbiamo la lotta contro il tempo, le imprese non aspettano più, nessuno aspetta, se non facciamo le riforme che entrino immediatamente in vigore non avremo nessuna possibilità di guardare al futuro, quindi se la fiducia è uno strumento perché i tempi vengano rispettati e la legge che è uscita non venga snaturata, ben venga. Se si può invece approvare il testo senza fiducia, lo si faccia, ma la sostanza è quella che conta, e la sostanza, il valore di questa legge non è perché sarà la legge che riforma il lavoro e che farà i miracoli, ma è la prima volta che c'è un segnale di vero cambiamento in Italia. I totem si abbattono. La superare l'articolo 18 non è solo un problema di merito, ma è il problema che l'articolo 18 e lo statuto dei lavoratori è sempre stato il simbolo e il segno di un paese che non aveva mai il coraggio di cambiare guardando al futuro, contrapponendo impresa lavoro, tutela del lavoro a tutela dei lavoratori all'impresa che invece voleva fare a meno dei lavoratori, quando non ho mai visto un'impresa che licenzia un lavoratore. Il lavoratore, in particolare l'impresa italiana, è la risorsa di un'impresa. Ecco, questo è il valore e credo che anche l'Europa l'abbia capito. A proposito di tempo che fugge e che corre, sappiamo che deve prendere un aereo, quindi la ringraziamo, grazie al ministro Maurizio Lupi. Grazie, buona giornata. A voi e grazie anche al lavoro che fate, siete una radio di grande servizio. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Una notizia prima di sentire America 24 e riguarda la vicenda del volo preso dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Era stata presentata un volo di Stato, era stata presentata una denuncia dal Movimento 5 Stelle a proposito di questo volo che l'ha riportata a casa. Ebbene, la Procura di Roma ha inviato gli atti al Tribunale dei Ministri chiedendo però l'archiviazione per la posizione della stessa Pinotti. Il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, oggi abbiamo un'attesa per due sviluppi importanti. Il primo, interno, Ferguson, Missouri, è la località dove sono esplose le tensioni razziali dopo che lo scorso agosto Darren Wilson, un poliziotto, ha sparato e ucciso un giovane disarmato, Michael Brown, un giovane afroamericano. Il gran giurì deve decidere se incriminare il poliziotto per omicidio o se chiudere il caso come un incidente. Ecco, un verdetto difficile, doveva essere annunciato già venerdì, ma è stato rimandato a oggi. Il problema qual è? Che c'è una tensione fortissima. Se Wilson, il poliziotto, sarà giudicato innocente, ci si aspettano delle dimostrazioni di nuovo molto molto violente. Fronte internazionale, Vienna, il negoziato che dovrebbe garantire che l'Iran non costruirà testate atomiche con la tecnologia per impianti energetici nucleari,